Si segnala ai responsabili della sicurezza che il passeggero Gianluca Nicoletti viaggia da settimane in ogni treno possibile. Quando arriva a destinazione sale nuovamente su un altro convoglio e riparte, apparentemente senza meta. Non sembra pericoloso, ma durante il viaggio cambia spesso scompartimento, intrattiene strane conversazioni con altri passeggeri, a volte legge, spesso telefona. Riceve messaggi al suo computer e sembra che il tempo non abbia per lui valore. Alcuni informatori riferiscono che alla fine del suo viaggio scombinato, ad aspettarlo, ci sia una donna. Quale rapporto lo leghi a tale donna, dalle nostre fonti, non è stato specificato. In ogni caso continuate a seguirlo, mentre il treno va. Il treno va. Perché c'è sempre una donna che aspetta dove terminano i binari. Un programma di Gianluca Nicoletti e Fabrizio Intonti. Erano mesi che non incontravo la ragazza con la chitarra. È stato uno dei personaggi chiave del mio precedente viaggio, quello della stagione precedente. E però da un po' di tempo era scomparsa. Mi aveva raccontato l'ultima volta di suoi problemi che aveva avuto in famiglia, non ho capito bene, ha trovato un lavoro e continuamente alla ricerca di un'anima gemella, ma come accade a tutte le viaggiatrici che incontro, dai 9 ai 90 anni, sono sempre lì, sole, accompagnate, in compagnia, col cagnolino da borsetta, comunque sempre cercano l'uomo, ma in fondo la chiave di lettura di questa trasmissione è che ci sia sempre una donna al termine del binario, e non è detto che su quel binario ci sia un uomo legato mani e piedi che aspetta il treno che passi e lo travolga. È una situazione paradossale. Io e la ragazza con la chitarra siamo chiusi in uno sgabuzzino, nello sgabuzzino degli attrezzi del treno. Sì, perché c'è stato un improvviso allagamento nello scompartimento. Sì. E vi descrivo la situazione. Siamo in un bugigattolo di un metro per un metro. Io sto praticamente steso per riuscire a dare più spazio possibile alla ragazza perché possa suonare la chitarra. Intimità costretta, mi verrebbe da dire. Infatti sento un po' odore di piedi che potresti. Sì. No, suona, suona almeno. Dicono sempre così. Sì, quelli che... I feticisti. Sì, certo. No, speriamo di no. Non me lo no, ma adesso. Figurati. Io penso di mostrarci almeno una mezz'ora qua dentro. Almeno purtroppo, mezz'ora. Sì, hanno detto che prima di mezz'ora non sgomberano i tronchi che stanno sulle rotaie dentro la galleria. Questa è un'altra versione. Treni fortunati. Poi vedi, quando uno dice il treno quando passa lo devi prendere. Sì, passa sempre un treno, ma no. Però c'è un problema, succede un incidente in due anni di treno va, c'è un incidente. Ci troviamo nello sgabuzzino, io con la chitarra. Per fortuna con la ragazza con la chitarra, perché se stavo con il folle genovese o con il signore toscano dai molti ricordi ultraottantenne era molto meno era piacevole. Imbarazzante. Riesci a suonare te qua dentro? Io sì, come no. Però sì. E tanto che non ti vedo sui treni, che hai fatto? Lo so, non ho viaggiato spesso. Perché? Perché non c'avevo motivo di viaggiare. Vabbè, raccontami qualcosa, dobbiamo bene o male riempire il tempo. Sono diventata molto più silenziosa in questo periodo. Quando uno è silenzioso cova un segreto irraccontabile che tu dovrai raccontare. Irraccontabile, allora lasciamo stare perché... Il tuo povero cuoricino affranto e martoriato finalmente ha trovato il lenimento che tanto cercavi. Il lenimento? No, la camomilla forse per pochi attimi. No, in realtà ho viaggiato ma ho tradito il treno. E con chi sei andata? Andata con l'aereo. Vabbè, hai fretta. Sono andata con l'aereo e tra le altre cose per fare un viaggio di 2 ore ci ho messo 5 ore e mezza perché l'aereo era rotto, perciò sempre cose molto semplici. E oggi è rotto il treno, ieri è rotto l'aereo. Sì, no, ma infatti comincio ti seguo a pensare una sorta che di dovrei stare a casa buona con la chitarra ferma. No, a parte gli scherzi sono andata a Londra. Da sola? E sono andata a Londra con 2 amiche. Sempre con la corte dietro delle carampane. Guarda, dopo questo viaggio penso che... Non te le porti più. Per alcune cose le amiche... Ma perché viaggiate sempre in gruppo voi donne? Non ho mai visto nella storia dell'umanità che io conosco, da quando sono nato, tante donne viaggiare insieme, in gruppo. Gruppi di amiche. Secondo te perché? Perché non ci sono uomini. Perché uno fa in gruppo, dice vabbè magari andiamo in gruppo, se ci sentiamo più libere di fare casino, di ridere, cioè, se vado, ma di ridere, ma siete grandi, cioè, 30 anni. Ma infatti io sono molto molto solitaria, non sono fatta... Beh, siete andate tutte e tre a fare cosa? A fare un fine settimana a Londra e... Con quale scopo? Con quale scopo? Appunto, no. E così a Londra, prima di Natale, ci sta, nel senso, una bellissima città, piena di luci, eccetera, eccetera. Vabbè, che avete fatto? E che abbiamo fatto? Abbiamo girato, passeggiato, visitato musei. Ma la tristezza, se erano tre nonne era la stessa cosa. Era esattamente, era la stessa cosa. Ma che sei così, così antiquate, muffite? No, in realtà, allora, abbiamo tutte abitudini molto differenti. Cioè? Perciò c'era chi la mattina alle 7:30 la sentivi che si faceva la doccia. Faceva le puzze. No, bene, non lo so. Ma che però... abitudini erano allora? Alle 7:30 andiamo a vedere i musei, corri, sbrighiamoci. Beh, c'ha ragione. Ok, io non ce la facevo, non ce la facevo. Vabbè, sei in vacanza per vedere i musei, ti alzi presto. Ma no, io ero in vacanza per dormire. Ma dormire dormi a casa tua, nel capito, tuo lettuccio. Dormo a casa mia, no, perché ti svegli presto già quando vai al lavoro. Perciò uscivo un po' più tardi. Poi una sera siamo andate in un posto molto molto bello. Locali. È un posto, presente il grattacielo più alto di Londra? No, non lo so. Si chiama Lo Shard, è un grattacielo. E c'è un ristorante in cima. Ci sta di tutto, sì, un ristorante, locale, così. E la cosa bella è che tu arrivi là sotto e passi da 0 a 32 piani in 5 secondi. Si ricorda ai signori passeggeri che nella carrozza 8 è attivo il servizio di ristorazione. E una volta che arrivi lassù vedi tutta Londra e poi una volta che arrivi lassù vedi anche il listino del menù e ti prende un colpo e dici vabbè grazie. Ma la seconda volta tu vai in un posto al di sopra delle vostre possibilità ma economiche, che ci andate a fare? Inconsciamente. Ma portatevi qualche uomo che vi offra. Ci stava anche il cameriere che ci prendeva in giro, questo io non dico perché, però passava ogni 3 secondi e diceva avete, volete scegliere anche il primo, un antipasto? L'altra volta beate l'acqua, siete andati dove? A Monte Carlo? Sì, avete chiesto vicino, acqua? Acqua. Questa volta è in un posto col strafigo. Ma c'è una cannuccia dentro. Che avete chiesto? Che abbiamo chiesto un'insalata, la cosa che costava di meno. Mi spiega adesso perché uno è sottoporsi a questa sorta di umiliazione? Ma no, ma è meglio andare in una trattoria e potete scrofanarvi quanto volete. Siamo anche noi. Ma non lo sai all'inizio, se vai lì, ma che ne sai? Ma cosa pensi che in cima al grattacielo più alto di Londra ti regalano da mangiare? Ma non me l'aspettavo perché mi sembra 32 piani. Vabbè, posto 32 piani, impara a vivere, è chiaro che paghi più di quanto tu puoi spendere. Ho capito, morirò dentro l'ascensore a questo punto. 32 piani in 5 secondi, arrivi su. Prezzi ovviamente sono malati. Fa una risata e chi se ne frega alla fine, non è quello. Vabbè, ma, sì, ma vai, tutti vi guardano, guarda le tre morte di fame, ma chissà che pensa. Ma che c'è scritto in faccia? Vai lì, prendi l'insalata. Perché non c'ho le labbra rifatte. Vabbè, dai, si vede su, ma ragazze. Si vede subito. Ordini un'insalata in tre, è chiaro che sei morto. Insalata in tre, no. Tre insalate. Dai. Quella costa meno. Ognuno c'aveva la sua insalata. Insalata verde, semplice. La Caesar salad. Ah beh sì, quella un pochino sì, dai, c'erano i crostini. Sì, che poi c'erano queste porzioni ovviamente molto piccole, perciò stavamo lì. Vabbè, la gente non va a sfamarsi nei ristoranti, va a vedere persone. Va a vedere gli altri che mangiano. Ma no, va a mangiare la scusa. Va a mangiare una scusa. Gli affamati mangiano, chi va lì non è affamato. No, infatti noi eravamo in linea con tutte le altre che stavano lì e mangiavano poco. E che avete fatto? Poi alla fine che avete portato a casa? Niente. Il doggy bag, io ero tentata di farlo ma avevo finito tutto, altrimenti l'avrei fatto. E poi era niente, poi a un certo punto devi riscendere, scendi giù e in questo ascensore devo dire c'è stato un incontro molto carino. Ah, nell'ascensore chi? Il manovratore dell'ascensore? Non c'era il manovratore dell'ascensore. E chi era questo incontro? Un ascensore così tecnologico che non aveva bisogno. E chi c'era? C'era un bellissimo uomo, molto bello, che è durato 26 piani. Durato 32 piani, per l'equivalente di 5 secondi, che però sono stati molto belli. Il treno va. Bentornati a bordo, i viaggiatori in ascolto, interessati a fare una chiacchierata sul nostro treno o a sottoporre una vicenda personale, sono pregati di scrivere all'indirizzo mail iltrenova@radio24.it. C'era un bellissimo uomo, così che poi le mie amiche neanche volevano salire in quell'ascensore, alla fine siamo saliti. E questo che faceva dentro l'ascensore da solo? No, non stava da solo, stavo con due amiche. Quindi, 5 donne e il bellissimo uomo. Il bellissimo uomo, esattamente. Che era già dotato di due femmine, quindi... Esatto, perciò era sazio, ha mangiato, però tranquillamente. E si apprestava di andare a fare il seguito. Esatto. No, erano due amiche, io mi piace pensarla così. Ma perché poveracce? Perché non devono... Se era bellissimo uomo non devono usufruire. Ma no, si vede dagli atteggiamenti che erano due amiche. Dai. Vabbè, potrebbe essere anche delle amanti che simulavano. Vabbè, fammi pensare che erano vabbè, due amiche. Vabbè, ma perché puoi pensare a me? Perché? Che ti importa? Perché non lo so, vabbè. Ti rode l'anima. Com'è che ti dispiace? Sei geloso? Sento illusioni, questa è la. Beh, che ti ha fatto? Ha dato il suo biglietto alla visita? Aspetta. Tratti i gesti con la lingua. Ti ha messo la mano addosso. Siamo nell'ascensore. Scendiamo giù, arriviamo giù. Lui sorride e fa: buongiorno. Dico: eccola. Però non era italiano. Ma chi è si è rivolto delle cinque? A me. Tutte le altre sono scomparse. Cono d'ombra, luce su di te. Scomparse. Stavano lì, però non so perché ha sorriso e mi ha detto buongiorno così. Insomma, alla fine era mezzo francese, mezzo. Beh, tutto questo inglese. In quanti secondi? Perché scusa, detto. In poco, vabbè, ha detto buongiorno, mica mi ha detto. Buongiorno, come una persona normalmente dice in ascensore a quelli che stanno. No, perché me l'ha detto alla fine, quando siamo usciti fuori. Beh, mica uno dice prima, quando esci, saluti buongiorno. Vabbè, e te ne vai. Ok. Normale. Una chitarra c'è. Vabbè, ti ha detto buongiorno, su questo buongiorno cosa hai costruito te? No, niente, gli ho detto parlate italiano, no? Parlate italiano, detto buongiorno. Che vocabolario. Cioè uno buongiorno lo sa dire almeno in sei lingue. Però sayonara, cioè tutte ste, non so se è così. Vabbè, parlate italiano, sì sì. Perché io abito vicino al confine, abito in Costa Azzurra. Dico, oh, la Costa Azzurra, la conosco molto bene. Ah sì, insomma, abbiamo iniziato a chiacchierare, ma pochissimo. Cioè, anche tutto, lui, in tempi, quanto? Un secondo e mezzo? No, perché poi eravamo usciti fuori dall'ascensore, camminiamo. E lui ha trascurato le due amiche per parlare. Ma erano con molto, l'ho detto che erano amiche, questa è la prova del fatto. Beh, che erano amiche. Non è carino, uno sta con delle amiche e non attacca il discorso. Ah, perché? Ho capito, pure allora non era carino nei confronti miei che stavo lì con le amiche, che c'entra, scusa. Eh no, voi siamo siete omogenee, siete. Lui è un cavaliere con due donne, diverso. Vabbè, fatto sta che adesso è andata così. E alla fine gli hai dato il telefono. Ti ha chiesto il telefono. Usciamo fuori, gli danno telefono. Le chiavi della macchina. A lui? Sì, perché c'era una macchina bellissima proprio là certo, fuori. Certamente. E ti ha chiesto di pulirgli il vetro. No, senti, ma è finito, hai staccato il lavoro. Dai. Poi? E poi niente, poi le mie amiche mi chiamavano, le sue amiche lo chiamavano. Ah, quindi voi eravate isolati dal resto delle persone? Sì, chiacchieravamo mentre camminavamo, poi gli hanno dato le chiavi della macchina, hanno messo un po' le mie amiche, dai, vieni! Rosicone, rosicando naturalmente. Dire, per favore, non le conosco, no, non le conosco, non so chi sia, proprio così. Non ha funzionato molto perché poi alla fine lui era un gentiluomo, cioè si è reso conto. Vi siete scambiati il telefono o qualcosa? Ci siamo scambiati Facebook. Tanti saluti. No. Quindi non sa manco come si chiama? Non so niente. Niente, però poi lui è ripassato con la macchina e ha abbassato. Ti ha suonato. Sì, ciao bella! Che ha fatto? E ha abbassato il finestrino e ha fatto un sorriso molto bello e mi ha fatto come dire ci rivediamo. E vediamo come se non c'ha il telefono, non sa niente. Ero tentata di corrergli appresso. Cioè, no, ma normalmente ti dà un segnale, ti dà il numero, il nome. Infatti, presa dalla contatto. Ho cominciato ad aumentare il passo perché c'era il semaforo. Ho detto oddio. Si lo è fermato al semaforo. Adesso se il semaforo non scatta, è destino e lo rincorre. E invece? Se scatta. È scattato. E ovviamente secondo te è scattato o no? E quindi stai qui a roderti. E alle amiche gli hai detto fatevi fare. Lo sgabuzzino con l'altro. Guarda, stanno quasi disincagliando le rotaie. Fa un po' riusciamo. Ah, quindi com'è finita? È finita che non è finita. Perché la mia amica mi ha detto: dai, non ti preoccupare, l'amica. Bello. Carina, rosicona. Dai, no. Mi ha detto: non ti preoccupare, se a destino vi rincontrerete. Io sono stata zitta. Sì, lei questo, è stata zitta, questo sta a Londra e tu stai a. Aspetta, a poi dopo due secondi ci pensa e mi fa: sì, ma che palle sto destino? È sempre questione di destino, ma aiutiamolo un po' sto destino. Sì, infatti, ti ha aiutato rompendoti le palle mentre tu potevi. No, non era una di quelle. Però è andata così. Che ti devo dire? Si ricorda ai signori viaggiatori che non è consentito l'uso promiscuo dei servizi igienici durante il transito in galleria. Ma adesso c'è questa nostalgia di quest'uomo, chi sarà ma mai? No, però è bello perché questi incontri lì per lì ti danno. Però dopo 10 minuti già stava a fare il wurstel dentro. Stava già facendo il dentro, panino. Dentro sì, il sandwich. Capito? Stavolta faccio io la carne e tu fai. Tu che stai pensando? No, però questi incontri sono belli perché ti ridanno vita per un pochino. Vabbè, sì. Cioè ti fanno sentire osservato, come hai stabilito un contatto con qualcuno. Ma perché ti vuoi così male? Ma non lo so. Fatti salutare da una persona che abita almeno a 3 km da casa tua, almeno è più facile tutti, che lo rincontri. Conosco tutti, eh sì, tutti. Lo sai che c'è il cane, vado sempre in giro col cane, perciò le conosco. Ma tanto il cane è fin di vita, no? Gianluca, tu mi hai detto che è ristretto e potrai urtarti con la. Ma hai detto che è fin di vita? No, sta benissimo adesso. Beh, allora è fatale che un animale che tu compri non ti sopravviva. Non l'ho comprata. Beh, che lo regali. Fa la differenza. Eh sì, ho capito, ma non ti può sopravvivere. È brutto dirlo, ma è così. Quindi devi prepararti comunque che ti lascerà l'animale. Ma che fa? Passi tutta la vita a prepararti alla morte? No, tutta la vita. C'ho 8 anni. Io andrei da un buon imbalsamatore e comincerei a farmi fare un preventino. Buona idea. No, c'è sempre vicino, capito? Lo imbalzami con la zampetta così, capito? Ti sembra ancora vivo. Oddio, si sta sbloccando questo treno. Eccolo, l'hanno si sbloccato. Dai. È stato molto bello. Cosa mi suoni? Me ne vado se mi fai una canzone. Cosa, italiano o inglese? Decidi. Ma che c'è il Ma che ti frega? Tanto non ascolto. Francese, italiano. Francese, ah, francese, sì. Francese? Sì. Invece ti canto inglese. Falla inglese. Ti canto inglese. Viaggiando tanto in treno mi viene sempre da pensare, probabilmente per il viaggiatore incallito, il passaggio nell'oltretomba sarà a bordo del mezzo che frequentemente lui usa. Uno va molto in aereo, magari comincerà a sognare di fare un viaggio in aereo che non terminerà mai più. Quello che va in bicicletta si farà l'eternità in bicicletta, l'automobilista guiderà fino alla fine dei giorni e il viaggiatore in treno aspetterà l'apocalisse sul suo binario. Avrà molto da pensare, molto da osservare. Fuori del finestrino si vedranno magari soltanto nuvole o fiamme dell'inferno, non lo so. Io quello che vorrei pensare sono le cose che comunque io non rimpiangerò il giorno che dovrei partire, che mi capiterà di partire per il mio viaggio senza fine o perlomeno senza precisa meta di arrivo. Non vedrò la stazione e penserò, incamminiamoci e pensiamo, cos'è che non rimpiango, cos'è che anche se non ritrovassi mai più non me ne farei un problema? E ho cominciato dalla mia voce della coscienza ad elencare l'una dopo l'altra le cose di cui farò volentieri a meno quando dovrò fare a meno di tutto quello che oggi mi riempie di felicità. Le cose che non rimpiangerò se finisce il mondo. I piedi di Paola Barale. Pare che fossero divenuti un vero culto fetish dopo che lei ne ostentò la perfezione in uno show TV. In rete si costituì una vera e propria chiesa di adoratori di tale vezzosa estremità. Cristina Sivieri Tagliabue fece un'inchiesta sul caso e scoprì che ragazzine minorenni si sottoponevano allo spezzettamento chirurgico e dolorosissima ricostruzione per avere estremità identiche alla Barale. Le persone belle dentro. Se fossimo trasparenti come i pupazzi anatomici che si vendono a pezzi in edicola, il problema sarebbe risolto. Ma dobbiamo liberarci della somma ipocrisia che vorrebbe una compensazione di paradisi interiori per chi sia concretamente sgradevole all'esterno. Nel post-finimondo non possiamo che auspicarci un corpo double face che possa essere rivoltato come un trench. Solo allora si vedrà chi abbia veramente una bella fodera all'interno della pellaccia che lo ricopre. Il treno va. Bentornati a bordo. I viaggiatori in ascolto, interessati a fare una chiacchierata sul nostro treno o a sottoporre una vicenda personale, sono pregati di scrivere all'indirizzo mail iltrenova@radio24.it. Invece un grande ritorno. Ritrovo il fantastico viaggiatore. Ormai è diventato uno sport nazionale elencare i luoghi in cui è stato, gli anni delle sue attività, metterli in fila e fare il conto della sua vita smisurata. Qualcuno mi ha fatto notare che non ha mai parlato della Cina. Cioè, non è stato mai in Cina, sembra impossibile. E quindi mi sono segnato che la prossima volta che lo vedo gli chiedo della Cina, così, subito, distante, senza aspettare. C'è un paese che non mi ha mai nominato, che è la Cina. Lei in Cina non c'è mai stato? No, io sono stato dal 74, abitavo a Hong Kong, a Kowloon. Sono stato a Macao, ho girato molto la Cina. Parla anche cinese? No, sarebbe una presunzione, dottore, lo capisco. Riesce a capire più o meno, perché sono vari dialetti. Più o meno. E cosa faceva in Cina? In Cina io sono sempre andato per trovare le mie adorate figlie che lavorano in Cina, tutte e tre. C'ha tre figlie cinesi che lavorano in Cina, cosa fanno in Cina? Hanno studiato arabo, cinese, e mauritano e tutto russo e sono interpreti internazionali. L'ultima mi ha lavorato per qui l'Expo di Milano, che riceveva industria Lotti, interventi, e fa una bella vita, guadagna 7-8 mila euro al mese e fa la public relation. Interessante. Io ho un figlio che studia cinese e giapponese, quindi lo faccia continuare fino all'esasperazione. Sì, ma lo fa molto volentieri. Guardi, c'è un mercato talmente immenso che se in Cina vendono uno stuzzicadente, da una parte la clorofilla, dall'altra che sta di menta, fa i soldi. Ma pensate, perché un milione di ristoranti per curiosità lo compra. E lei invece in Cina, a parte trovare le figlie, cosa faceva? Niente, assolutamente niente, perché sono sempre andato con visto di turista di soggiorno, niente, cercavo di capire veramente dovrebbero mettere il libro di Marx del capitale, perché la Cina è un capitale mostruoso di soldi, di potenzialità umane e soprattutto di riserve umane. In Cina non trova un vecchio, non trova un bambino, trova tutti studenti. E dove li mettono? E dove li mettono i vecchi e i bambini? La Cina è grande, dottore. La mettono in agricoltura, che le hanno anche intensificate, tutto il resto. Non lascio perdere altre cose che io ho visto. E cosa ha visto? No, ci dica. Ma non so, ad esempio hanno l'università della Medusa, dove qualunque medusa che prendono, manipolano, fanno della farina, le medicine, con le meduse. Come medusa che poi è acqua, analiticamente anche proteica, eh? Io pensavo fosse un niente, gelatina acquosa e basta. Sì, niente, è un elemento naturale. Quindi fanno... Le pescano, no, la più piccola pesa come me lei e me. C'è queste mattanze spaventose. Mattanze di meduse? Sì, sì. Ma fino alle sigarette della Merit ci sono alghe, meduse. Insomma, manipolano tutti i cinesi. Arrivano alla catastrofe, ma prima di arrivarci, sa, ci seppelliscono tutti. Quindi lei ha molta fiducia nell'espansione della Cina? No, non ho fiducia. È che per controllare 1 miliardo di persone più bisogna industrializzarle. I dentisti cinesi le mettono i denti d'oro e d'avorio, non pensano nemmeno a... nelle nostre protesi, capito? Cioè d'avorio, come avorio degli elefanti proprio? Ma questo non lo so, dottore. Denti d'oro l'avevo visto, anche danno gli zingari mettono i denti d'oro, ma d'avorio non lo so. Saranno fatti di foca. Si ricorda ai signori passeggeri di non lasciare incustoditi i propri bagagli durante il viaggio. E poi cos'altro c'è di singolare che ha visto in Cina di cui non si parla, che magari si passa poco? Lei vuole andare a un casino, va da Macao, più è grossa come la città di Genova. E tutti giocano? Giocano dai bambini alle massaie. Io l'avevo lasciato mia figlia perché corsa incontro e fa: papino, dammi soldi verdi. E la facciamo giocare a Shanghai. E quali sono i giochi d'azzardo che fanno in Cina? Che ha visto lei almeno? Sulla morte. E cos'è? È una specie di roulette russa che poi diventa cinese. Ah, lo fanno proprio come nei film del Vietnam? Sì, bello uguale, c'è sale da tutte le parti. Cioè c'è uno che si spara e tutti scommettono. Si chiama ogni morto porta un profitto. Ma come funziona? L'ha vista lei questo gioco? Sì, l'ho visto. E come funziona? Ho anche partecipato. Cioè, ma esattamente come nel film Il Cacciatore? No, lì vabbè, è un po' messo agli estremi, ma la realtà è quella, perché tanto non si ferma mai, si figuri. C'è gente che va là, dice: c'ho un ettaro di terra, me lo gioco, quanto vale? 100.000 yen, si mette e se ne guadagna 200.000 e esce contento, se no esce morto. La dinamica com'è, diciamo, com'è la dinamica della scommessa? Cioè ci sono due persone che si fronteggiano? Lei, allora, io sono il suo procacciatore d'affari, no? Sì. La porto perché lei come fosse il mio agente, come il mio agente, quello che mi rappresenta. Ecco, la piazzo lì e le dico che lei vuol giocare, basta, io firmo un'assicurazione a mio favore o alla sua famiglia se sono buono. E niente, poi adesso si svolge nel giro di 30 secondi, 30 minuti, dipende. E in una stanza con tutte le persone che guardano e scommettono come nel film oppure? Ma fanno la cosa. L'assalto ai cani feroci o che lì non conta niente, no, ai galli, la stessa cosa. Cioè la persona sta al centro di una stanza con una pistola, deve girare. Sono 100 persone al giorno disposte a rischiare la propria vita per guadagnare di più e per farsi la ciotola di riso sana, che la chiamano la gold ciotola. L'ha provato lei l'oppio? Sì, l'ho provato fino a 3 anni fa. fumandolo proprio come nelle fumerie, come si vede nei film. Sì, tipo il film lì. Ma è una cosa perché l'occhio è piacevole, è rilassante. E fa vedere delle belle cose. Ah, si hanno anche le visioni, si hanno con l'oppio. Sì, vabbè, poi se gli oppiace vanno altre cose. Ma i fumatori d'oppio, come proprio come quelli, l'immagine classica, quelli tutti stesi. Diventa, deve stare attento all'epatite A, B, C. Perché si prende con l'oppio. E con l'oppio è facile. Come si fa a prendere l'epatite con l'oppio? Cioè uno deve fumare sulla pipa di un altro. Sì, ma sa benissimo, dottore, che il fumo nel sangue entra in 7 secondi. Infatti loro poi le danno la grappa di rosa, le danno cosa, cercano di farla urinare il più possibile. Per eliminarlo? Per buttare via perlomeno un po' di scorie, chiamiamole così. Ah, perché l'oppio è pericoloso? L'oppio ad ogni modo è una cosa che sente la pioggia ed è sempre di sentire Beethoven. C'è una amplificazione di sensi. È un'amplificazione culturale tra il mio e il suo cervello. Quello che lei recepisce come bellezza e satura il suo stato d'animo, glielo esalta. Quello che sarebbe un dispiacere glielo porta agli estremi rimedi. Porta nell'uomo un benessere totale e un malessere totale. Dipende da come ci va. Se è felice diventa felice, se è infelice peggiora tutta la vita. Se uno è depresso è bene che non fumi oppio, ecco. Sai che i francesi dicevano che le veuve cliquot, che sarebbe il papavero, non le veuve. Sì, non la champagne. Se sì, una fleur, è anche un fiore. Chi pensa solo uno champagne non sa che anche chi papà. Chi ha scritto le fleurs du mal? Certo, Baudelaire, chiaro. Se lo lega, se la tralasciate, vedrà che c'è tutto quello che significa l'oppiaccio. Si informano i signori passeggeri che è vietato sostare nelle toilette durante le fermate intermedie del treno. Sì, quello è vero, figuriamoci. L'oppio, il vino, tutto. È un inno all'uscita. Vede, ma il vino nasce da una cultura cantaviva, la tradizione di mio nonno, di suo nonno, da ricerche. Io so che il vino che preferisco in Italia è il Falanghino, quello di Benevento. Che non c'entra niente con Genova. È di stampe, però è profumato, ha degli aromi incredibili. È un vino che si adatta a tutto, ecco. Ma girando per il mondo, quali sono le cose che ha bevuto più strane a questo punto? L'altra volta abbiamo parlato di cibo, di bevande. Bevande di tutti i tipi. La bevanda che ho bevuto più strana è l'arak. Dove si beve l'arak? Si beve in Indonesia, è fatta con il palmito. C'è l'arak e il tuak, uno è un vino melenso, schifoso. E l'altro, l'arak invece, è fatto dal bambù. Fa 90 gradi e ci fanno col miele, limone, bicarbonato, cose varie. Poi gli olandesi mettevano anche il gin e altre cose. È una bomba atomica che insomma vicina alla cirrosi epatica, ecco. E i locali ne fanno grande uso, immagino. È la bevanda nazionale, dottore. Chi sono i grandi bevitori che ha conosciuto lei? Quali sono le popolazioni di grandi bevitori, anche di schifezze, ma che bevono tanto? Schifezze australiani. Si bevono di tutto. Perché nella Guinness vera c'è la pietra vulcanica dentro, sulfurea. È fatta con la pietra sulfurea. E dà un gusto alla birra, dottore, forse guidano fra una. Va bene con le parti grasse, va bene a tutti i modi, ma è un bel bere, sai? Io conoscevo Gascogne, sai, quello che giocava. Sì. E lui lo sai cosa faceva la mattina a Roma? Come era appena arrivato, parlava inglese, aveva una Mini Cooper con la bandiera sopra. E allora, 3 uova rosse, 2 bicchieri di Afroide, sai cos'è l'Afroide, no? No. È un whisky terrificante che fanno in Irlanda, buonissimo, sa di medicina, si fa una sciacquata, è come uccise dal dentista, latte e poi Big Vitamin, andava a giocare e giocava come un angioletto. Quando non era ubriaco non capiva un cazzo, sapeva nemmeno dove era il pallone. Il treno va. In questa fase in cui tutti aspettate l'audiolettera, vorrei dire che non è che sempre dovete parlarmi dei vostri movimenti amorosi, dei vostri cuori infranti. Se volete, sì, continuate a raccontarmi. Poi essenzialmente sono donne che raccontano della delusione che l'uomo non era quell'uomo che loro pensassero. Finalmente sono riuscito a pescare nel mare magnum delle tantissime lettere che mi mandate, una che non riguarda una questione di cuore, ma riguarda una questione di ben altro apparato anatomico, eventualmente e ugualmente essenziale comunque per intrattenere una relazione amorosa. Caro Gianluca, devo dirti sinceramente che non conosco bene il tuo programma, ma una mia amica, dopo aver ascoltato la mia storia, mi ha consigliato di scriverti, dicendomi che ti aveva sentito parlare del massaggio romantico. E così ho accettato di mandarti questa mail che preferisco non firmare. Sono una ragazza di 24 anni. Da 4 mesi finalmente ho trovato un lavoro che mi soddisfa. Faccio l'estetista e la massaggiatrice, attività che da sempre mi appassiona e per la quale ho dedicato diversi anni di studio. Lo so che la gente pensa sempre a noi un po' in chiave erotica e questo ci infastidisce non poco. Proprio a tal proposito sono due gli episodi che ti volevo raccontare. Circa un mese fa mi è capitato un cliente che aveva richiesto un massaggio ai piedi. A un certo punto, quando ormai avevo finito il trattamento, questo signore pensa bene di chiedermi con sguardo ammiccante: «È tutto qua?» Gli ho risposto tranquillamente che il trattamento era finito. Lì per lì, il cliente si è alzato e rivestito e mi ha salutato con fare sbrigativo. Ma successivamente sono venuta a sapere dalla titolare del centro estetico che il signore in questione si era lamentato con lei della mia prestazione, sostenendo che il massaggio non era stato soddisfacente. Ho spiegato alla mia titolare che ho agito da professionista e lei mi ha ribattuto che avrei dovuto essere più gentile. So di avere una colpa, di avere messo la pulce nell'orecchio a questa gentile ascoltatrice su quello che sia il massaggio romantico. Il massaggio romantico è una definizione gergale da pensionati e uomini soli e disfatti per richiedere una prestazione non propriamente legata alla terapia fisico-funzionale alle massaggiatrici cinesi che ormai hanno invaso quasi tutte le nostre città. E a questa serissima professionista che avrà studiato fisioterapia, sarà una perfetta riabilitatrice di persone che hanno avuto dei problemi, una fisiatra come mai non esistono, viene chiesto il massaggio romantico. È fatale però che il momento che l'equivoco viene subito chiarito, e in cui lei si rivolge alla sua titolare e dice: guarda, questo signore forse ha capito male, io sono una fisioterapista, non faccio massaggi romantici, la signora l'abbia quasi fatto capire che in fondo sì, proprio da farglielo capire in maniera più gentile. Quindi questa sorta di confine terrificante dell'ambiguità esiste anche nei luoghi più rispettabili. Poi, una settimana fa, il secondo episodio. Un altro cliente a cui dovevo fare un massaggio alla schiena. Lui mi precisa che il punto più dolente era praticamente all'altezza del fondo schiena. Pur trovandomi un po' a disagio perché il suo tono mi sembrava ambiguo, memore del rimprovero della mia capa, procedo come richiesto. Ma dopo nemmeno 30 secondi mi prende la mano e la sposta ancora più giù, sotto il suo asciugamano. La ritraggo immediatamente, rifiutandomi di proseguire. Me ne vado indignata dalla titolare, spiegandole l'accaduto, e le dico: «Anche in questo caso devo essere più gentile? Se tu non sai gestire i clienti, non è colpa mia», mi ha risposto. Ecco, alla fine sono io quella strana che non sa fare bene il suo lavoro. E anche altre ragazze e mie colleghe hanno avuto esperienze simili. Allora ti chiedo, perché molti uomini cercano le cose nel posto sbagliato? E perché, se non lo trovano, fanno sentire te nel posto sbagliato? Cercherò in qualche maniera di rimediare alla mia colpa di averti messo il rovello che qualcuno possa chiederti il massaggio romantico. Mi sembra di aver capito da questa fase della tua lettera che in realtà l'equivoco non è un equivoco, è molto chiaro. Quando uno ti prende la manina abituata a massaggiare rotule, tibie, muscoli e nervi e te la pone sotto l'ombelico, è il massaggio romantico che ti chiede, non esiste ambiguità. Quindi se tu non vuoi perdere il posto, non vuoi nemmeno trovarti in imbarazzi simili, ti do un suggerimento. Tu potrai presto scaricare un file dal sito del Trenova su Radio 24 che io ti anticipo facendolo sentire direttamente dal mio smartphone. Quando il signore ti chiede, senza chiederlo direttamente, ammicca e capisci che vuole il massaggio romantico, tu non devi fare altro che pigiare lo schermo del tuo smartphone e fargli ascoltare questa canzone. Lui capirà immediatamente.